La zanzara con Alessio Maurizi. Numero verde 800 24 0024 per intervenire in diretta questa sera, cari ascoltatori, come ogni sera alla Zanzara, 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, seguiteci anche su Facebook, la Zanzara. Saremo insieme fino alle 20:30 con me Alessio Maurizi, Laura Marchesi e Marco Lombardo in redazione, Valeria Bernardi in regia. Mentre si aspettano notizie dall'incontro tra il governo e le parti sociali sulle misure che verranno prese per anticipare il pareggio di bilancio, misure che si annunciano lacrime e sangue. Titoli di Sky TG24. Crollo di Piazza Affari, Milano lascia sul terreno il 6,65%. Male tutte le borse europee, Wall Street perde quasi 4 punti. In corso l'incontro tra governo e parti sociali, Berlusconi già al lavoro sulla carta. E Tremonti dice la manovra va ristrutturata, pareggio di bilancio nel 2013. Cameron convinto, la linea dura paga 1200 arresti per le violenze di questi giorni. Afghanistan, eliminati i talebani responsabili dell'abbattimento dell'elicottero NATO. Colpito a bottigliate da un coetaneo, muore 18enne in provincia di Monza. Scudetto del 2006, Andrea Agnelli non ci sta, è il titolo dei prescritti, dice. Mentre oggi Piazza Affari ha registrato un altro tonfo con una perdita di oltre 5 punti percentuali e gli occhi adesso sono puntati anche su Wall Street per vedere come andrà la seduta, molto negativa, anche se le perdite sono inferiori rispetto a quelle registrate appunto dalla borsa di Milano. C'è crisi indubbiamente e io ho detto un anticipo di manovra che si annuncia lacrime e sangue, non lo so, insomma staremo a vedere, però tutti i giornali sono pieni di anticipazioni. Comunque la Sigiri si trova a trovare il modo di risparmiare un bel po' di miliardi di euro. Pareri a confronto. Il ministro del lavoro Maurizio Sacconi ribadisce che le pensioni in questo momento sono al riparo da possibili interventi. Si parla di nuovi interventi sulla previdenza, sono ipotesi reali? Ma allo Stato non c'è nulla a questo proposito, guarderemo insieme alla sostenibilità dei conti previdenziali che certamente nel medio-lungo termine sono a posto e nel breve termine faremo una verifica con le parti stesse. Il punto per il ministro del welfare Sacconi e per una parte sicuramente della maggioranza e non solo, probabilmente, è dare regole ai mercati, perché ha ribadito Sacconi, i mercati seguono regole diverse da quelle dell'economia reale. C'è una crisi globale e l'andamento dei mercati è assolutamente disgiunto dall'andamento delle economie reali. Credo servirà una più robusta capacità dei leaders dei paesi nella dimensione globale, nella dimensione europea, di dare regole a questo mercato internazionale. Economisti e sismologi, due mestieri inutili, ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666. In effetti sono momenti nei quali tutte le previsioni economiche risultano sballate e non si sa più che pesci pigliare. L'intervista di Renato Brunetta, il ministro, sul giornale, titolo su due righe, Italia a posto entro tre mesi, l'ottimismo di Brunetta. Poi all'interno spiega anche perché, secondo lui, è possibile approvare una serie di provvedimenti in così poco tempo. Risentiamo un crozza Brunetta. Fatemi spiegare. Sì. Il 60% degli italiani mi ama. È vero. È bello, sono contento. Bene. È contento. E per questo va tutto bene, l'ottimismo che caratterizza probabilmente questo governo. No. È il momento ottimo, no, un'economia guardi, forte. Ministro, c'è una crisi economica gravissima. Bene, è giusto. Ma no, no, ma chiudono le banche, ministro. Siete indietro, si fa pulizia. Vabbè, però. Se è nella giungla, il forte mangia il debole. Ci saranno delle famiglie che non avranno più la casa. Appunto. Bene. No, come bene. Gente sull'astico, bene. No. Morti? Probabilmente sì. Ma come bene. No. Bene. Oppure semplicemente E chi sta all'opposizione, evidentemente avendo meno problemi di responsabilità di governo, ha le idee più chiare su come affrontare questa crisi. Per esempio, chi come Cesare Damiano del PD dice bisogna aggredire le rendite finanziarie, parere che tra l'altro concorda con quello che abbiamo riportato ieri di Flavio Tosi della Lega, sindaco di Verona, che è un po' controcorrente nel centrodestra, sostiene questa tesi. Sentiamo Damiano. Dobbiamo parlare delle rendite finanziarie, lasciamo stare i bot, perché sennò è un, come si dice, il gatto che si morde la coda, esentiamoli, soprattutto i piccoli risparmi dei piccoli risparmiatori, però le rendite finanziarie che nel nostro paese sono tassate al 12%, le vogliamo portare al 20% come capita nei paesi europei, le transazioni finanziarie speculative attraverso le quali con un click si spostano con il computer ingenti somme da un continente all'altro, da una borsa all'altra senza pagare dazio e quindi ci si arricchisce impoverendo milioni di famiglie. Le vogliamo in qualche modo inibire, tassare? Le rendite finanziarie, dice Damiano del PD, ma non solo, anche i patrimoni. I grandi patrimoni sono esenti dal concorrere a formare il risanamento. Io dico chiamiamo tutti a raccolta, cioè il paese deve sentire che nelle manovre c'è anche un'equità sociale, altrimenti si ha la sensazione che si colpisce chi? Il ceto medio basso, le pensioni, l'assistenza, il welfare, dove c'è da pescare, sperando che non ci siano proteste sociali. Tra le notizie, gli spunti curiosi di questa sera c'è anche un divertentissimo Gian Antonio Stella, Cortina Incontra, che rivela alcuni retroscena e indiscrezioni sulle scelte artistiche fatte da Berlusconi a Palazzo Chigi a proposito del dipinto del Tiepolo. Ricorderete il seno coperto e poi scoperto e coperto, e addirittura una statua dedicata a Marte a Palazzo Chigi che, alla quale il presidente ha fatto rimettere il pisello. Scusate, ma questo è quello che ha detto Stella ed è davvero gustoso, lo sentiremo più avanti. Tra le altre cose di cui vogliamo parlare, e ve lo faremo sentire, lo spot sulle tasse voluto dal governo, e ci sono già le prime reazioni di chi dice non è con lo spot che si combatte l'evasione fiscale. Tra poco, insieme all'800-24-00-24, ascoltatori, ancora un po' di pazienza perché facciamo il traffico e poi il primo ospite, un esponente del governo, tra poco. Bruno Cesario, buonasera, sottosegretario all'economia. Buonasera. Allora, Cesario, anche lei ha dovuto fare qualche straordinario, nel senso avrà dovuto interrompere le vacanze, è a lavoro in queste ore per affrontare la crisi? Sì, io sono a Roma, quindi sono tornato a Roma e domani sarò anche io a Roma in commissione bilancio. Ex PD, passato attraverso l'API, uno degli onorevoli, entrato nel gruppo dei responsabili, grazie al quale poi il governo insomma ha ottenuto la fiducia, e lei ha fatto un cambio di casacca. Lei disse non avrò nessun riconoscimento, poi è diventato sottosegretario. Ma lasciamo perdere questo, Cesario. Quello che ci interessa in questo momento è: lei ha qualche anticipazione, per esempio, su quello che il governo proporrà alle parti sociali per anticipare questo pareggio di bilancio, questa manovra? Ci sono varie indiscrezioni sui giornali, si parla delle pensioni, anche se Sacconi smentisce, nuove tasse, qualcuno dice la patrimoniale anche nel suo governo, altri sono molto contrari e via discorrendo. Lei sa qualcosa? Adesso il governo sta ascoltando le parti sociali, dove ci sarà un confronto, e domani in commissione bilancio, con le commissioni congiunte bilancio e affari nazionali, il ministro Tremonti verrà a portare delle proposte, quindi ci aspettiamo domani. Ma lei, diciamo, come sottosegretario all'economia avrà qualche notizia? È stato coinvolto da Sacconi, Tremonti soprattutto, ma anche lo stesso Berlusconi che sta guidando un po' queste ore? Guardi, io sto facendo il mio lavoro, su queste questioni se ne sta occupando il ministro. Quindi non l'hanno coinvolto direttamente? No, si sta occupando il ministro. Senta, Cesario, ma quale, non so, ci dica quale sarebbe, se dipendesse da lei, la sua ricetta per trovare questi risparmi e per anticipare questo pareggio di bilancio. Ripeto, si fanno varie ipotesi, da intervenire sulle pensioni, dimagrimento della macchina dello Stato, i costi della politica o altro. Nessuna ipotesi. Domani il ministro dirà la sua proposta. Le posso solo dire che adesso a parlare è facile, la demagogia si fa bene in una crisi così forte. Ma chi è che fa demagogia, scusi? Ne fanno tante la demagogia. Penso che la crisi è così forte, abbiamo visto quello che è accaduto da poco con i mercati francesi, quindi è una situazione veramente difficile, e penso che tutti i gruppi politici, domani è importante che ci saranno tutti, che io so che verranno tanti parlamentari, anche non della Commissione Bilancio Affari Costituzionali, quindi anche per testimoniare la vicinanza non solo al governo e quelli della maggioranza, ma io so che verranno anche molti dell'opposizione, quindi penso che dovremo dare un segnale di coesione domani più che una contrapposizione, che il momento è difficile, dobbiamo superarlo insieme. Poi tutto il resto, ci saranno i tempi per litigare. Domani penso che dobbiamo dare un segnale che l'Italia deve uscire da questa situazione, e tutte le forze politiche con grande responsabilità vanno avanti, portano il paese fuori da questa difficoltà. Ma questa difficoltà, Cesario, secondo lei è frutto di una crisi globale o c'è anche una debolezza particolare italiana, come qualcuno dice? Guardi, le borse, i dati delle borse attribuiscono a tutti i governi una debolezza. Io penso che il governo è saldo, ha i numeri, può andare avanti, la solita liturgia delle dimissioni ormai è fuori luogo, anche perché anche all'interno dell'opposizione ci sono posizioni diverse, c'è chi dice lavoriamo, che non è il momento di fare ulteriori polemiche, ci sono problemi da risolvere. Dobbiamo dare atto che l'opposizione ha dato una mano nell'approvazione della manovra, a tempo di record c'è stato un grande senso di responsabilità, penso che dobbiamo andare in quella direzione. Senta Cesario, lei mi ha detto sostanzialmente che lei è sottosegretario da poco, da maggio, non è stato coinvolto direttamente, probabilmente sarà stato tutto avvocato a Berlusconi e Tremonti. Lei non fa previsioni, però almeno dal punto di vista politico ci dica qualcosa, si sbilanci un po', perché altrimenti fatto un'intervista. Io a Tremonti stamattina l'ho incontrato e l'ho visto al lavoro, molto determinato. Molto impegnato. Io le voglio far sentire però. Determinato, sì. Quindi penso che lui è una persona che troverà sicuramente le soluzioni domani. Ma lei sta con Tremonti o con Berlusconi? Perché sa che nel PDL, ormai lei non è nel PDL, ma insomma nella maggioranza ci sono un po' due linee, e ce l'ha confermato. Io stimo sia Tremonti che Berlusconi, quindi però non sia così, appassiona... Cesario, non sia così abbottonato, perché sono due linee diverse. Le voglio far sentire, poi ce lo commenta. Ieri abbiamo intervistato Giuliano Cazzola, vicepresidente della Commissione Lavoro, un collega parlamentare del PDL, ex sindacalista di Economia se ne intende. Lui ieri ha detto: ci sono due linee nel governo, quella di Berlusconi e quella di Tremonti, la manovra è stata un po' un pastrocchio. Sentiamo questo passaggio, poi voglio sapere cosa ne pensa. Nel governo, dopo la sconfitta elettorale delle amministrative, ci sono due linee. Una che vorrebbe scaricare il risanamento e piacere nuovamente all'elettorato, che è una linea portata avanti dal Presidente del Consiglio. L'altra invece è quella di Tremonti, era la linea di proseguire nel rigore. E noi invece nella manovra abbiamo messo tutte e due queste linee. La storia della riforma fiscale era assolutamente improponibile e insostenibile, però gliel'abbiamo dovuto mettergliela perché lo voleva Berlusconi. Cesario, ci sono queste due linee, come dice Cazzola e come scrivono anche molti giornali, o no? Il governo è unito, queste divisioni sono dinamiche all'interno del partito, che sono anche doveroso, perché un partito può avere delle posizioni diverse, ma io vedo che la linea è la stessa, si sta lavorando in piena sintonia per risolvere i problemi. Non è il momento di dividersi, questo è un momento di unirsi. Lei è molto ecumenico, però mi scusi, c'è spazio per, come voleva Berlusconi, per questa riforma fiscale oppure no? noi siamo in queste condizioni anche perché la contrapposizione del nostro paese è talmente forte che ognuno dice il contrario dell'altro, sia in maggioranza che in opposizione. Quindi io penso che se tutti quanti lavoriamo allo stesso modo per risolvere i problemi, non per inventarci cose che non esistono, contrasti che non... Però scusi Cesario, non mi lasci così nel vuoto, perché io altrimenti mi sento male. Mi dica lei, da sottosegretario all'economia, una sua piccola cosa, un suo punto io per intervenire in questo momento e risolvere la crisi. No, io non ho la competenza del ministro Tremonti, ne posso solo... Ma lei è sottosegretario, però, mi scusi, non è che sta parlando con uno che... Ma io c'ho il ministro Tremonti, ne posso dire che io sono ottimista perché si sta lavorando bene, penso che la linea del rigore in questo momento del governo sia la più giusta, bisogna tenere ben saldi i piedi a terra. E penso che domani il ministro Tremonti dirà in commissione quello che ha preparato. Ho capito. Cioè, lei non si è sbottolato su nulla, Cesario. No, lei, in queste ore difficili, lei, sottosegretario all'economia, niente. Le pensioni, bisogna intervenire o no sulle pensioni? Ma io non parlo. Non parlo perché... Ma sembra non è un interrogatorio, cioè non siamo in tribunale, Cesario. Di una persona che non è così importante può significare molto, quindi io non parlo. Aspettiamo. Ma lei ha detto che è al lavoro, no, in queste ore? Sì. Scusi, ma cosa sta facendo? Aspetta, allora? Io sono stato in ufficio a lavorare su vari provvedimenti, oltretutto ho dato la disponibilità il 31 agosto. Ma ci faccia un esempio di questi provvedimenti. Pronto? Sente? Sì, no, e dicevo, ci faccia un esempio di uno di questi provvedimenti per darci l'idea di come si sta muovendo il governo. Guardi, sulla manovra, l'ho detto che io non sto lavorando, io sto lavorando sui provvedimenti saranno presenti nelle commissioni convocate il 31 agosto, quindi poiché io sono uno di quelli che ha dato la disponibilità ad essere presente, può verificare. Stavo qui per lavorare su questo. Domani sarò presente in commissione. Lei sarà presente in commissione? Sì. Ho capito. Prenderà appunti, però, non è che interverrà per dire qualcosa? Ma io non intervengo, c'è il ministro, si figura. Mica intervengono tutti quelli che vanno. Lei sa quanta gente ci va domani? Non lo dica lei. Tantissime. Le posso assicurare tantissime. So che hanno aggiunto molte sedie, quindi le presenze sono... Cesario, ma un'ultima domanda, poi la lascio, so che la stazione deve prendere un treno, ma lei è diventato sottosegretario all'economia per una scelta, diciamo, di opportunità politica o per una valutazione anche della sua esperienza? Cioè, lei la crisi la sta studiando, la sta affrontando in qualche modo, quali sono le sue competenze economiche? Perché fino ad ora non ci ha detto nulla, Cesario, ci ha lasciato proprio a bocca asciutta. E lei mi chiede se ci sono le contrapposizioni, da che parte sta, dove devo stare. Io le sto dicendo, io sicuramente non sono un economista, ma le posso assicurare che i risultati, io sto lavorando tantissimo, mi informo, sto lavorando, sono molto presente, sto portando avanti tantissime cose e quindi poi i risultati saranno sotto gli occhi. Va bene, io lo ringrazio. Penso che sono uno di quelli che ha iniziato da poco a fare questo, a avere questo compito così difficile, penso che ci sto mettendo tutto l'impegno e sono presente su tutte le questioni, tra le commissioni bilancio, finanze, aula, io sono sempre disponibile e tanti provvedimenti portano il mio nome, quindi si può informare. No, io gliel'avevo chiesto direttamente, ma non ci ha voluto svelare i provvedimenti su cui sta lavorando, ma non importa. 18:29, grazie Bruno Cesario, la lasciamo. Grazie a lei. Siamo, ripeto, in attesa di capire quali saranno i provvedimenti con i quali il governo, parlando con le parti sociali, deciderà di arrivare a questo pareggio di bilancio. A fianco a me Sebastiano Barisoni ci ha raggiunto, perché tra poco l'aggiornamento di borsa, doveroso, giornata terrificante. È ancora lì, non è vero Cesario? No, ce n'è andato, perché volevo capire, insomma, almeno così, con la sua opinione personale sulla patrimoniale, sull'innalzamento dell'età pensionabile, su varie cose che sono all'oggetto del giorno per capire dove verranno reperiti questi 30-35 miliardi che serviranno poi, come ha anticipato oggi il ministro Tremonti, per la manovra del 2012 e comunque per riformulare tutta la manovra varata non più tardi di un mese fa. Viene a dire con una battuta, poi passiamo ai mercati. Stavo per dire le cose serie, ma oggi anche i mercati sono poco seri. Devo dire che, insomma, quando si hanno risposte di questo tipo si capisce anche perché i mercati abbiano ampie praterie per speculare. Ci sono margini, insomma. Sull'Italia. Spiego anche sull'Italia. Agli ascoltatori, prima di dire la sigla dei mercati, la presenza di Sebastiano Barisoni, perché gli ascoltatori che vogliono fare delle domande sulla crisi, sulla situazione, Barisoni è a disposizione per vedere se riusciamo qua siamo. A dare risposte, non lo so, sicuramente accettiamo le domande. E intanto cominciamo da quello. Allora, 824 0024, tra poco appunto le borse e poi con gli interventi degli ascoltatori. 18:36 minuti, cari ascoltatori, 824 0024, tra poco cominciamo a sentire i vostri interventi. Prima titoli del TG2. Con l'avvio negativo di Wall Street crollano le borse europee, profondo rosso per Milano che perde oltre il 6%, era andata bene invece la vendita dei bot. A Palazzo Chigi, vertice sulla crisi economica fra il governo e le parti sociali. Berlusconi, probabile consiglio dei ministri 18 agosto, Tremonti, bisogna ristrutturare la manovra. Se a Londra è tornata parzialmente la calma dopo gli scontri dei giorni scorsi, si infiammano le città del nord della Gran Bretagna, oltre 1000 le persone arrestate. Finisce in tragedia una lite fra ragazzi a Sovico, in provincia di Monza, un 18enne muore dopo essere stato colpito con una bottiglia da un coetaneo. Raffica di messaggi SMS al 349-238-6666. Dopo l'intervista al sottosegretario Cesario, Nanni Moretti è più chiaro: faccio cose, vedo gente, ditelo a Cesario, ci scrive un ascoltatore, altri Cesario, chi era costui, oppure avete fatto bene a chiedergli di insistere su che cosa sta facendo, è stato evasivo. Bravi comunque, un esempio di buon giornalismo, ci scrive Marco da Verona. Grazie, però il risultato è stato in effetti magro. Allora, ascoltatori, prima però a Sebastiano Barisoni vorrei chiedere, Sebastiano, ondata di vendite evidentemente sulle borse, speculazione si dice, ma che succede? Chi è che sta vendendo e perché? Sì, la domanda vera sarebbe chi è che sta comprando a questi prezzi, nel senso che è vero che vendere i titoli in cui, non so, abbiamo un gruppo come Unicredit che ormai quota in borsa la metà dei mezzi propri è una situazione obiettivamente assurda. E la cosa significativa è che in questa crisi ogni giorno cambia la preda di riferimento. Lunedì abbiamo visto una Germania fortemente penalizzata assieme a Wall Street dall'ipotesi di un rallentamento economico mondiale. La settimana scorsa era stata la volta dell'Italia. Oggi è toccato alla Francia. E per cui è un po' come certi virus che reagiscono agli anticorpi e agli antibiotici perché mutano essi stessi. La Francia, su cui devo dire obiettivamente gli spread con i Bund sono 85-90, nulla di preoccupante, in cui è arrivata una grossa rassicurazione da Sarkozy. Le agenzie di rating hanno detto che non vogliono declassare il debito francese, che resta AAA. I timori sono che le banche in questo periodo si siano riempite di obbligazioni, sono certezze più che timori, a rischio perché rendevano tanto, mi riferisco a quelle greche, portoghesi e non solo, e adesso iniziano a vendere. C'è un altro effetto che si nota ed è comunque che la maggior parte degli ordini in questo momento arrivano di là dall'oceano e da lì non vuol dire solo gli Stati Uniti ma soprattutto Stati Uniti, e da lì il ragionamento: probabilmente i grandi fondi, oltre che speculativi e anche pensione, stanno ritirando i soldi, li stanno portando a casa. E da lì i cali continui sul mercato, anche se tutte queste sono spiegazioni parziali, perché distruggere il valore di Société Générale, uno dei colossi bancari francesi, di un quinto, cioè meno 20% in un giorno, senza notizie nuove, obiettivamente lascia tutti perplessi. Segnaliamo, e concludo Alessio, che è un tema più legato al tuo programma, che quello che era stato l'effetto Berlusconi sul mercato, cioè parla Berlusconi, il mercato va giù, l'effetto Obama sul mercato, parla Obama e Wall Street perde il 5%, oggi possiamo chiamarlo anche effetto Sarkozy. A nulla è servito questa mattina, sono servite le rassicurazioni che arrivavano dall'Eliseo su conti in ordine, sul rating saldo e su una manovra correttiva. Sembra quasi che ogni volta che parlano i capi di governo, il mercato, invece che vederci qualcosa di positivo, ci veda la conferma che la situazione è peggiore di quello che vogliono dire. Ok, grazie. C'è una notizia, tra l'altro, da Palazzo Chigi. Il governo sta valutando tutte le possibilità e tutte le ipotesi. Sarebbero frasi dette dal sottosegretario Gianni Letta, a quanto riferiscono alcuni partecipanti all'incontro. Letta avrebbe aggiunto: sappiamo che servono scelte rapide e coerenti. In questi 5 giorni tutto è cambiato, tutto è precipitato, avrebbe detto Letta appunto nell'intervento con le parti sociali. Allora, come detto, ascoltatori, iniziamo da Maurizio, che ci chiama dalla provincia di Sondrio. Buonasera. Sì, buonasera, scusate l'emozione, ma non sono abituato a intervenire alla radio. Una precisazione, ma chi è quel personaggio che avete intervistato prima? È il sottosegretario Bruno Cesario, sottosegretario all'economia. Ma io devo pagare le tasse per dare un maggio di questo personaggio simile. Vabbè, chiusa la parentesi. Un'altra cosa, oggi leggo su un giornale appunto una questione riferita al signor Flavio Carboni con Denis Verdini per l'eolico in Sardegna e tutto quanto. Ma è mai possibile che questi personaggi legati all'uccisione di Calvi, per cui stiamo parlando di 30 anni fa, ce li ritroviamo nel 2011 ancora collusi con i vertici del governo, ma non vertici di secondo ordine, vertici, e poi vengono a dire a noi artigiani che siamo degli evasori per forza di cose solo perché siamo artigiani. Quelli che invece frequentano questi personaggi, no, ci è capitato di frequentarli. Ma stiamo scherzando o no? Maurizio, non ci porti sul terreno delle inchieste di queste cose qua, perché insomma, diventa scivoloso e bisogna aspettare che ci siano delle certezze, altrimenti diventa difficile, almeno per me, commentarle. Vuole aggiungere qualcos'altro? Sì, che sono veramente indignato. Qua bisogna stare attenti alla guerra civile, non bisogna stare attenti alle tasse. Qua bisogna stare attenti che queste persone devono veramente preoccuparsi per la loro incolumità se vanno avanti così. Perché qua veramente stiamo resentando, iniziano con Londra, iniziano da un'altra parte, si immagini che iniziano con Londra che non hanno i problemi, i personaggi che abbiamo noi. Si immagini cosa esce fuori in Italia se andiamo avanti di questo passo e la gente veramente si stufa. Dopodiché avranno veramente bisogno delle scorte, perché penso proprio che la gente normale come me adesso ne abbia piene le scatole. Non possono venire a chiedere i sacrifici a noi per poi vedersi girare milioni e milioni e milioni di euro in tangenti a personaggi che dovrebbero essere fuori da qualsiasi carica politica, fuori da qualsiasi posto. Ripeto, grazie intanto Maurizio, ripeto, su questo non mi spingerei, invece le dedico l'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli, che a Cortina Incontra ha abbandonato i suoi toni usualmente molto raffinati per esprimersi così sul caso, vi ricordate l'elicottero usato dalla Polverini, governatrice del Lazio, per andare ad una sagra del peperoncino? Sentiamo Mieli. Che il presidente della Regione Lazio trovi opportuno andare in elicottero alla fiera del peperoncino, ancorché poi dica che se l'è pagato, vuol dire che c'è una mancanza di sintonia con quello che sta accadendo nel paese, veramente grave. Guardate che fra un po' quegli elicotteri ve li abbatteranno coi bazooka, ci saranno delle cose molto gravi nel paese. Così dunque Mieli. Riprendiamo con gli ascoltatori, sono molti in linea. Francesco, che ci chiama da Siena, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Mi sente, sono in linea? Sì, la sentiamo forte e chiaro, prego. Buonasera, scusi, intanto complimenti per la trasmissione, sono un vostro ascoltatore affezionatissimo. Le volevo chiedere, tanto a lei quanto a dottor Barisoni, se è lì presente. Sì. Se tutta questa crisi ventilata, di cui sicuramente le banche e principalmente anche i governi non ne fossero già a conoscenza, o comunque che non ci si trovi poi davanti a una speculazione dei soliti 7 grandi del mondo che mettono tutti in ginocchio per poi ricomprarsi a 0 lire o 0 dollari o 0 euro, quello che sia, tutte le proprie azioni per poi speculare sulla faccia dei risparmiatori che vanno magari dietro ai rating a AAA a doppia A più, eccetera. Non so se vi trovo concordi con quello che è il mio pensiero, se sono riuscito a esprimere. Sì, sì, no, il suo pensiero è chiaro. Adesso sentiamo, io non mi esprimo, sentiamo cosa ne pensa Sebastiano Barisoni. Prima però facciamo una pausa per il traffico. Allora, avevamo in sospeso la domanda di Francesco da Siena su una sorta, se non ho capito male, di mano lunga sui mercati che fa e disfa, Sebastiano. Allora, sì, è chiaro che da un lato la crisi, per rispondere all'ascoltatore, non è ventilata, c'è tutta e sta durando più del previsto. Il secondo aspetto è che cosa c'è di concreto e cosa c'è di speculazione. Di concreto c'è un'America che cresce meno delle attese, i rischi di una doppia recessione, di un double dip, come si chiama in gergo, più forti di quanto non fossero un anno fa, e tutte le banche centrali, quella americana e quella europea, che hanno meno cartucce a disposizione, perché hanno già pagato, in caso americano, più di 800 miliardi negli ultimi 2 anni per mantenere l'economia viva, per tenerla in vita. E anche nel caso europeo, il salvataggio della Grecia, dell'Irlanda, del Portogallo, adesso vedremo cosa l'Italia e la Spagna, non si può immaginare che le banche centrali salvino tutto. E allora c'è chi scommette che la situazione andrà a precipitare. Secondo aspetto della sua domanda, i governi si erano già a conoscenza? Obiettivamente no. La situazione attuale sta indebolendo tutti i governi europei, in primo luogo quello italiano, ma anche Sarkozy è appunto dovuto rientrare dalle vacanze. Barack Obama è in estrema difficoltà negli Stati Uniti, proprio, e l'abbiamo visto sul debito. No, la speranza di tutti i governi è stata che dopo il salvataggio fatto nel 2009 e con alcune iniezioni, alcune anche toppe come quella nel caso greco, si potesse respirare, continuasse a tirare l'economia mondiale, Cina e India, quindi le esportazioni italiane e quant'altro, e si arrivasse verso una stabilizzazione. Nessuno immaginava obiettivamente sberle come quelle di questi giorni arrivare d'estate. Ultimo aspetto, chi ci guadagna? Beh, è chiaro che se qualcuno vende, qualcuno compra. Ora, da sempre Radio 24 non dà consigli sugli acquisti, diciamo così. Però è ovvio che quando tu vedi delle banche come Intesa San Paolo, che oggi hanno perso un altro 13,70%, quotare 1,13 euro, o Unicredit quotare 96 centesimi, è vero che nel 2009 arrivò a 60 centesimi, ma insomma lì c'era Lehman Brothers, lì c'era il crollo della finanza mondiale. Oggi questo non si vede. È chiaro che qualcuno starà comprando a pochissimo prezzo, perché ripeto, quotano la metà in alcuni casi dei mezzi propri, cioè di quello che hanno in cascina. Ed è chiaro che qualcuno su questo ci guadagnerà. La differenza tra chi investe in maniera spregiudicata e il cassettista è proprio questo: uno rischia di perdere ancora un po' e poi guadagnare, l'altro si fa spaventare. Ma detto questo, non vedrei un complotto dei governi, vedrei più che altro il ritorno dei capitali verso gli Stati Uniti o verso altri lidi, capitali che prima erano arrivati in Europa per comprare obbligazioni bancarie o obbligazioni degli stati. Allora, riprendiamo con i vostri ascoltatori. Questa sera siamo sul filo un po' dell'attesa dell'incontro governo parti sociali e un po' anche, insomma, dell'evoluzione anche della borsa americana. L'Europa ha chiuso malissimo, Wall Street, vediamo, speriamo che non ci metta un altro carico da 90 sopra. Pasquale da Prato, buonasera, prego. Finalmente, buonasera, mi sente? Sì, la sentiamo benissimo, prego. Perfetto. Due o tre cosine veloci. Una, mi consenta di fare i complimenti a lei, che veramente, ecco, dobbiamo essere grati, perché dà la possibilità effettivamente di sentire tanta gente e quindi di vedere effettivamente cosa la gente pensa e sente, contrariamente a quanto avveniva prima con il suo predecessore, con il quale è tutt'altra storia. Spero che il direttore di Radio 24 ne tenga conto per il futuro. Sì, a me viene da ridere, però la ringrazio, ma lo dico anche un po' per... Sì. Lo dico anche per chi ha opinioni opposte da questo punto di vista. Non è che possa in qualche modo diventare un tema della trasmissione, mai, perché non è così interessante. Comunque, prego, prego. Di fare i complimenti per questo. Sì, grazie. Due, volevo dire qualcosa a proposito dell'educazione a pagare le tasse, no? Perché all'improvviso sembra che gli italiani debbano essere educati a pagare le tasse, no? Con questo spot che sta venendo fuori, che a me fa letteralmente ridere. Cioè, finora abbiamo considerato ancora l'ennesima dimostrazione di come gli italiani poi alla fine siano considerati da questo governo il parco buoi. Perché? Perché finora hanno lavorato nella direzione esattamente opposta: condoni edilizi a tutto spiano, condoni fiscali, condoni tombali, l'ultimo lo scudo fiscale, tutto questo va nella direzione esattamente opposta, a dire furbi, comportatevi da furbi perché alla fine vincerete, o mi sbaglio. E mi chiedo fino a che punto gli italiani hanno ancora pazienza di sopportare tutto questo, perché io penso che stiamo veramente agli sgoccioli prima che succeda qualcosa. Io penso personalmente che qui passa una scintilla che esploda qualcosa nelle piazze, perché effettivamente non se ne può più. Ora tutta questa ennesima batosta ovviamente deve ricadere su chi? Su chi ha evaso finora le tasse, ovvero i pensionati, ovvero le famiglie, ovvero gli impiegati e i piccoli imprenditori, di cui io faccio parte. Piccoli imprenditori, Italia è piena di piccoli imprenditori, imprese sotto i 30 dipendenti, abbiamo una pressione bancaria, il connubio banche-Equitalia è diventato una roba esplosiva, non se ne può più. Abbiamo tanti esempi di piccoli imprenditori che si sono suicidati a partire dal Veneto, a partire dal laborioso Veneto, no? E c'è tanta, tanta gente che non ha più sopportato la vergogna di essere iscritto in una centrale rischi dopo 40 anni di onesto lavoro, si trova con 6 mesi di illiquidità, problemi limitati in un periodo di tempo dovuti alla crisi, diventano all'improvviso per le banche dei delinquenti, come tali vanno iscritti nella centrale dei rischi e come tali molti non sopportano questa vergogna e si sono suicidati. Questo è un dato di Pasquale, volevo chiedere al dottor Basilisoni, che è tanto che lo seguo, se può fare qualche volta una puntata su questo aspetto, mettere un po' a fuoco la pressione bancaria sulle piccole imprese in Italia, perché non è così normale, insomma, all'estero non è così. Io mi sembra che ne abbiamo parlato, io. Grazie Pasquale, grazie. Adesso faccio parlare anche Sebastiano, ma insomma ne abbiamo parlato da questi microfoni del rapporto tra le PMI e le banche. A parte Sebastiano, una pioggia di messaggi, ti fanno mille domande e il programma evidentemente almeno quello, dai. Ti dà un'autorevolezza. Qualcuno addirittura ti chiede se tu fossi ministro dell'economia cosa faresti. Non lo so, è una domanda che però vorrei dedicare all'ascoltatore invece. Prima di tutto sentiamo lo spot, quello sulle tasse, anche se non si può vedere, ma insomma non importa, sentiamo l'audio del famoso spot che da ieri circola sulle reti, credo Rai, non so, anche se quelle delle reti private, uno spot del governo contro per la lotta all'evasione fiscale. Sentiamo. Chi vive a spese degli altri danneggia tutti. Battere l'evasione fiscale è tuo interesse. È un breve frammento. L'ascoltatore diceva che il governo fino ad ora si è mosso in senso contraddittorio, quantomeno su questo fronte. È in compagnia di una lettera che oggi ho letto sul Repubblica, di un presunto dipendente dell'Agenzia delle Entrate, che segnala una riduzione delle risorse destinate all'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione. Sarà forse per il restringimento delle risorse complessive, non lo so. E poi anche la diminuzione dei controlli da 220.000 a 175.000 su chi non dichiara. Una lettera non firmata per questione di anonimato da parte di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate. Io vorrei sollecitare, se ci sono ascoltatori dipendenti dell'Agenzia delle Entrate che sono a conoscenza di un ridimensionamento da questo punto di vista, non sarebbe senz'altro una bella notizia. 800 24 00 24. Sebastiano, non so se hai qualcosa da aggiungere. Dunque, per rispondere alla tua domanda, cosa farei se fossi ministro dell'economia? Innanzitutto non sarebbe un premio in questo momento, ma al di là della battuta, col senno di poi, e così mi ricollego anche all'ascoltatore, non avrei fatto lo scudo fiscale al 5%. Cioè, è verissimo che lo scudo fiscale andava fatto con un'agevolazione per far entrare questi capitali però illecitamente usciti da questo paese, quindi c'è un reato dietro. Col senno di poi il 5% è stato un regalo. La tassazione sull'aliquota marginale è al 43%, ora non dico di fargliela al 43%, gliela potevi fare al 10, al 15, anche al 20. Siccome il 5% furono 5 miliardi, se tanto mi dà tanto avremmo intascato 10-15 miliardi, che con quello che corre non erano poca cosa. Per quello che riguarda poi il taglio, cioè sui costi complessivi della politica, ne parliamo spessissimo. La sensazione in questo momento è che sia sotto scacco tutta la classe politica europea e l'Italia è debole in una debolezza, cioè viene rappresentata come il ventre molle di un'Europa comunque in difficoltà. Piero da Genova, buonasera, benvenuto. Buonasera innanzitutto, grazie per lo spazio che mi potete dare, volevo soltanto dire ed esprimere brevi concetti. Io lavoro in banca, ho contatti giornalieri, sono consulente, ho contatti giornalieri con le persone, dal piccolo risparmiatore all'imprenditore alla casalinga. C'è una percezione di questa crisi molto accentuata, c'è un allarmismo consistente, noto, ed è il mio concetto anche che vado ad evidenziarlo, un'insofferenza delle persone, soprattutto orientata nei confronti della classe politica. Quest'ultima manovra ha messo nuovamente le mani in tasca ai cittadini, penalizzandoli o dal punto di vista delle pensioni o penalizzandoli dal punto di vista dei ticket o delle imposte fiscali o quant'altro. Io penso che oggi le persone chiedano tagli alla spesa pubblica. L'azienda Italia oggi deve essere considerata come una qualsiasi impresa. Non si possono continuare a fare delle manovre finalizzate a tagliare dei piccoli o a chiudere dei piccoli buchi, ma vanno ridotti i consumi. Siamo un paese in cui il numero dei parlamentari e dei senatori è il doppio degli altri paesi. Poi chi più ne ha, che più ne dica, ci sono tutti questi benefit o quant'altro. Questo è quello che è il mio pensiero, è quello che in questo momento penso, da quello che nel mio lavoro percepisco come un sentiment forte da parte delle persone. Io vi ringrazio. Grazie a lei. Prossimo intervento, Paolo, che ci chiama dalla provincia di Ascoli Piceno. Buonasera. A un minuto, perché poi abbiamo buonasera, giornale radio. Buonasera, sì. Dottor Maurizi, ringrazio di avermi chiamato. Senti, io volevo intervenire sull'affermazione che c'è stata proprio due giorni fa, è stato riportato anche da tutti i giornali, di Bossi, che ha detto non si toccheranno le pensioni della nostra gente. Ma io faccio una riflessione. Se la maggior parte del debito pubblico è determinato dalle pensioni, l'assistenza, gli stipendi che bisogna pagare ai dipendenti pubblici, che cosa andranno a toccare? Cioè, se non ci saranno degli interventi strutturali, potranno inventarsi qualunque tipo di rimedio temporaneo, ma il problema si ripresenterà. Poi, riguardo al discorso dell'evasione fiscale, forse sarebbe anche il caso che un po' tutti quanti gli italiani si facessero ecco, un esame di coscienza. Io voglio vedere un po' quanti sono gli insegnanti che fanno le ripetizioni e che lasciano la ricevuta fiscale. Ai, altro tema più volte sollevato anche da voi ascoltatori. Grazie. 18:58, dobbiamo fare una pausa per le notizie del giornale radio. Rientreremo più tardi, 800-24-00-24. Numero verde 800-24-00-24 per intervenire in diretta anche nella seconda parte del programma questa sera, cari ascoltatori, 349-238-6666 per i vostri SMS. E allora una puntata un po' particolare, perché stiamo seguendo quello che succede a Palazzo Chigi nell'incontro tra il governo e le parti sociali, anche l'andamento delle borse. Ne abbiamo parlato molto in compagnia di Sebastiano Barisoni, che ci raggiungerà di nuovo più tardi, poco prima delle 20, per fare di nuovo un punto e magari rispondere anche alle domande degli ascoltatori su questo. Titoli Sky TG24. Borse nel panico, Piazza Affari chiude a meno 6,6%, brucia 22 miliardi. Wall Street a picco, nel mirino degli speculatori finisce anche Parigi. Il governo incontra le parti sociali, Berlusconi il 18 agosto, le misure anticrisi. Tremonti avverte, la manovra va ristrutturata, il pareggio di bilancio nel 2013. Londra 1200 arresti per fermare le violenze, Cameron dice la linea dura paga. Brianza, rissa tra giovani finisce in tragedia, 18enne ucciso a bottigliate. Torino tentano rapina ma il gioielliere spara, muore un bandito, preso il complice. Voragine, inghiotte, un autocompattatore nel napoletano, un morto e due feriti. Scudetto 2006, la Juve non dimentica, pronti a ricorrere al TAR, dice Agnelli. Prandelli vuole le furie azzurre, questa sera l'amichevole con la Spagna mondiale. Qualcuno nei giorni scorsi ha parlato, ha espresso dei dubbi sull'atteggiamento della Germania rispetto all'acquisto dei titoli del debito pubblico italiano e tedeschi. Un altro fronte di una piccola, in questo caso, polemica tra Italia e Germania potrebbe essere aperto da questa notizia che oggi riporta il Secolo XIX, ma ce l'ha anche il giornale. multati in Italia, allora non pagate. L'ha scritto la Süddeutsche Zeitung ieri, riportando la dichiarazione ufficiale degli automobile club tedeschi, secondo i quali, anzi, che consigliano ai tedeschi multati in Italia di ignorare le multe, perché tanto i controlli in Italia non funzionano, e quindi la sostanza è questa: meglio non pagare, tanto appunto le multe poi non arriverebbero. Titolo del TG3. La borsa di Milano, maglia nera in Europa, crolla di quasi il 7%, affondano i titoli delle banche e gli industriali. Tracollo delle borse europee per le voci di un possibile declassamento della Francia, Parigi smentisce, a picco anche Wall Street. Berlusconi e le parti sociali, il 18 agosto il varo delle misure anticrisi, Tremonti la manovra è da ristrutturare, Gianni Letta scelte rapide, tutto è precipitato. Scontro PDL Lega, boss contrario ai tagli alle pensioni, il premier non vuole la patrimoniale, stasera faccia a faccia tra i due leader. Domani l'intervento di Tremonti in Parlamento, il terzo polo, venga anche il presidente del Consiglio, Bersani non paghi la povera gente. Ancora violenza in Gran Bretagna, scontri a Manchester, Liverpool e Birmingham, calma tesa a Londra, il premier Cameron ribadisce la linea dura. Vicino Napoli, un camion rifiuti inghiottito da una grande voragine in pieno centro, un morto e due feriti per la popolazione, un disastro annunciato. La campagna del governo contro l'evasione fiscale: se evadi sei un parassita, appare scritto in sovraimpressione in questo spot. Risentiamolo. Chi vive a spese degli altri danneggia tutti. Battere l'evasione fiscale è tuo interesse. Ripeto, una lettera pubblicata oggi sulla Repubblica di un dipendente che non si firma dell'Agenzia delle Entrate, che denuncia però l'ipocrisia di questo spot proprio nel periodo nel quale vengono tagliate le risorse a disposizione degli agenti del fisco per fare la lotta all'evasione fiscale. Questa mattina ospite di Gianfranco Fabi, il direttore generale, credo, di uno dei dipartimenti dell'Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro. Sentiamolo. Non credo proprio che non siano graditi questi spot. Sicuramente sono graditi alle persone oneste, sono graditi a coloro che da sempre pagano quello che devono pagare. Gli spot sono sicuramente un invito, una spinta, e vedremo se sortiranno l'effetto che si ripropongono. Convincere l'evasione non paga, che evadere è un qualcosa di fortemente negativo, quindi creare un clima avverso all'evasore. I primi commenti che escono dall'incontro governo parti sociali del segretario della CGIL Camusso non sono incoraggianti, dice: non siamo a livello delle aspettative. Quindi il commento della Camusso è sostanzialmente: ci aspettavamo qualcosa di più. Non si sa esattamente se il governo abbia messo le carte in tavola in questo incontro, perché il decreto che anticiperà la manovra sarà poi presentato, a quanto si è appreso sempre oggi, in un consiglio dei ministri il 18 agosto, dopo quindi la pausa di Ferragosto. L'ottimismo del ministro Brunetta oggi sulla prima pagina del giornale, una prima pagina tutta dedicata a lui, l'intervista a Brunetta: Italia a posto entro 3 mesi, il ministro, pensioni, tasse, province, pronti alle riforme. Chissà se avrà ragione lui. Allora risentiamo un Brunetta crozza. Fatemi spiegare. Sì. Il 60% degli italiani mi ama. È vero. È bello. Sono contento. Bene. Certo. E per questo va tutto bene, l'ottimismo che caratterizza probabilmente questo governo. No. È il momento ottimo, no, un'economia guardi, forte. Ministro, c'è una crisi economica gravissima. Bene, è giusto. Ma no, ma chiudono le banche, ministro. Siete indietro, si fa pulizia. Vabbè, però. E nella giungla il forte mangia il debole. Capito. Ci saranno delle famiglie che non avranno più la casa. Appunto. Bene. No. Come bene. Gente sull'astico, bene. No. Morti? Probabilmente sì. Ma come bene. E poi, cari ascoltatori indignati, 800 24 0024, numero verde, tra poco per sentire i vostri interventi in questi giorni di indignati. Ce ne sono molti che ci chiamano, ce l'hanno con la politica, che la classe politica che non è all'altezza delle sfide che l'aspettano in questi momenti difficili per l'economia. Soprattutto vi dedichiamo un Marco Pannella che auspica una rivoluzione possibile. È possibile in Italia che le rivolte popolari che ci sono ovunque nel mondo possano divenire, grazie a noi, delle rivoluzioni liberali? E in Italia dove sono gli indignati? Non esistono. Come non esistono? Sono gli indignati italiani. E le decine di migliaia che fanno gli scioperi della fame e poi conquistano ad un regime partitocratico da 60 anni ladro. Ladro non è solo Berlusca, eh? Anche coloro che non sono credibili come opposizione, la sinistra, il centro, la destra del regime, sono regime. Un'altra notizia che leggiamo sui giornali di oggi è questa. Via la statua di Totò da Alassio. Il sindaco, nessun legame con la città. Meglio il genovese Gilberto Govi. Roberto Avogadro, buonasera, sindaco di Alassio. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Perché? Perché se l'è presa con Totò? Ma guardi, adesso a sentire tutte le altre notizie, questa mi sembra veramente piccola, però no, non me la sono presa con Totò. Io rispetto l'arte di Totò assolutamente. Però nel contesto cittadino preferisco avere vie, strade, giardini dedicati a personaggi che effettivamente hanno contribuito a fare del bene alla mia città. Però andando di questo passo bisognerebbe abolire, ammesso che Totò non abbia fatto del bene anche ad Alassio, dagli schermi della televisione e del cinema, i suoi film sono arrivati a tutti gli italiani, compresi quelli di Alassio, bisognerebbe eliminare tutto quello che non è strettamente alassiese, come si dice? Alassino, mi scusi. No, no. Sarebbe un po' difficile, no? No, vabbè, ma comunque noi vogliamo intanto portare in primo piano il discorso del territorio, quindi io sono un ex leghista, quindi ci tengo molto a queste cose, cioè al contatto col territorio, e quindi finché si può si cerca di privilegiare personaggi di questo tipo, sì. Come ad esempio Sandro Pertini, un grande ligure, ad Alassio non ha ancora una strada, e quanto prima cercheremo di dedicarla. Però le strade sono tante e c'è posto per tutti. Adesso Non sono così tante, via. Sono tanti i personaggi che hanno dei nomi per le strade, ma le strade poi non sono infinite. Adesso però, non so se lei, diciamo, è una trovata anche per avere un po' di popolarità, non si offenda, la toponomastica ha mille risvolti politici, è di ieri il caso, tra l'altro oggi chiuso, del parco Falcone Borsellino a Parma, che la giunta di Parma voleva intitolare a Sandra Raimondo Vianello, però lì hanno fatto retromarcia. Insomma, sono, come dice giustamente lei, anche delle notizie un po' estive. Però, ripeto, non so se lei cercava popolarità, ma ha trovato impopolarità, perché io ho un elenco di dichiarazioni qua, che tutti che vogliono prendersi il busto di Totò che Alassio ha lasciato. Adesso dov'è? In un magazzino, sindaco? Adesso è in un magazzino, il magazzino del comune. No, ma noi non si cercava assolutamente popolarità. Nell'ambito di una ristrutturazione di questo giardino, si è pensato di dedicarlo a chi questo giardino l'aveva regalato alla città molti anni fa, e cosa che non era mai stata fatta. E allora perché non spostare il busto da un'altra parte, per esempio, no? Adesso l'abbiamo spostato da un'altra parte. In magazzino, poi, però, mi scusi. In qualche collocazione vedremo, ma visto che c'è tutto questo interesse per questo busto, che di per sé è anche piuttosto brutto, peccato che in radio non si possa vedere. No, la foto, io ho la foto qua davanti della stampa, non lo so, no? C'è Totò con... Cioè, se c'è tanta così, se è così appetito questo busto, noi siamo ben disposti a cederlo al miglior offerente, naturalmente. Non, perché lei parla di valorizzare, cederlo al miglior offerente, quindi, ma volete monetizzare a questo punto? Beh, evidentemente era costato alla precedente amministrazione 16.000 euro, quindi si potrebbe partire da... Base d'asta 16.000 euro, esatto, il sindaco di Alassio non si pente, base d'asta 16.000 euro, vendiamo il busto di Totò. Esatto, esatto, esattamente, sinteticamente è espresso il concetto. Senta, lei, prendiamo atto, ma dice che preferisce mantenere un legame stretto con il territorio, no? Sì. cosa apprezzabilissima, però evidentemente non sempre è possibile. Io leggo che l'ultima Miss Muretto, per esempio, che una rassegna che si svolge lì ad Alassio, è una bellissima moldava. In questo caso la Lassina è arrivata seconda e la Moldava è arrivata prima, ma intanto bisogna dire che Miss Muretto ha vinto Miss Muretto, nel senso che la manifestazione ha avuto un successo molto molto forte, e chiaramente lì c'è una giuria, ha giudicato la migliore, e non c'è stato nulla da dire, l'importante è che la manifestazione abbia avuto un grande risultato, non per nulla è stata classificata tra la terza tra le manifestazioni di bellezza in Italia, quindi no, un grande, grande appuntamento, poi evidentemente la bellezza non ha confini. Se l'è cavata, qua se l'è cavata bene, se l'è cavata bene, però io riprendo il discorso di Gilberto Govi. Lei, almeno è stata fatta anche questa ipotesi, un attore genovese, però usando questo metro, allora bisognerebbe togliere via Garibaldi, piazza Mazzini per mettere, non so, piazza Avogadro, cioè un domani politici locali, perché cioè, ci sono simboli... ci sono simboli che in un futuro molto lontano possa venire anche questo. Io, ma che senso avrebbe, scusi, perché nessuno la conosce? Avevo intitolato... Nel mio primo mandato avevo intitolato una via a un ex sindaco, un filantropo grollero, quindi un medico filantropo. Sì, ma che senso ha? Mi scusi, una piazza, una via, un monumento devono essere intestate a persone popolari, non a Gilberto Govi. Mi scuseranno i familiari, ma non lo conosce nessuno. No, è vero, in Liguria è molto conosciuto, per quello che è importante, che la sua terra valorizzi i propri personaggi. Gli altri hanno già un palcoscenico ampio e possono avere fama più larga, nel piccolo è giusto che vengano valorizzate le persone che hanno fatto qualcosa per quel territorio, per quella zona. Gilberto Govi per noi è stato un grande, non meno di Totò sicuramente per noi. Ma poi Totò, perché per esempio tra quelli che si mettono in lista ci sono, credo, il sindaco di Cuneo, perché la famosa battuta l'ha fatto il militare a Cuneo, l'associazione Uomini di Mondo. Le leggo, poi ci sono tutti i napoletani, naturalmente, tutti quelli del sud, ma è un po' la solita crociata di un ex leghista contro il sud, e questa volta c'è finito di mezzo Totò. Ci dica la verità. No, assolutamente no. Io avevo già criticato 3 anni fa il monumento quando era stato messo, perché lo ritenevo inopportuno, mentre avrei ritenuto più opportuno appunto qualcosa di più caratteristico, legato, come ripeto, alla città. E adesso, avendo avuto l'occasione appunto di questa ristrutturazione, è stata fatta questa scelta, ma che non ha nessuna connotazione antimeridionalistica. E va bene, grazie. Allora, Roberto Avogadro, base d'asta 16.000 euro, magari il comune vicino ad Alassio fa uno smacco, se lo compra e se lo mette in piazza. Chissà. Io lo auspico. E lo auspica soprattutto di venderlo, questo mi sembra averlo capito. Esatto. Va bene, esatto. Grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata, grazie. 19.30, 824 0024, tra poco riprendiamo con i vostri interventi, adesso i mercati finanziari. 19 e 34 minuti, cari ascoltatori, tra poco di nuovo con i vostri interventi, ma prima con una gradita ospite. Però vi avevamo preannunciato due interventi di Gian Antonio Stella, Cortina Incontra, che rivela particolari indiscrezioni, a me almeno ignote fino ad ora, sulle scelte artistiche di Berlusconi a Palazzo Chigi. Cominciamo con il famoso dipinto del Tiepolo, quello che campeggia dietro alle conferenze stampa a Palazzo Chigi. Avete presente i ministri stesi, insomma, allineati di fronte al tavolo del governo e dietro quel dipinto. Sentite Stella. Un rapporto con l'arte, così, diciamo, curioso, ecco, no? Lo si vede nella scelta di usare come sfondo della sala stampa di Palazzo Chigi La verità svelata dal tempo di Giovan Battista Tiepolo, un affresco meraviglioso che è custodito ai Musei Civici di Vicenza. Quale sia la recondita ragione per cui il Cavaliere ha scelto questo dipinto, che rappresenta un vecchio incartapecorito e una giovane donzella nuda, non ne ho la più pallida idea. Ancora un altro particolare di Stella a proposito di questo dipinto e del seno coperto e scoperto. Come ha spiegato il soffice Paolo Buonaiuti, c'era un capezzoluccio che finiva dritto dritto dentro l'inquadratura del TG1. E il nostro presidente, che generalmente ha con i capezzolucci un rapporto abbastanza sciolto, par di capire, insomma, in questo caso ha preferito far mettere un reggiseno, per cui la dama del Tiepolo, che era stata dipinta senza reggiseno, adesso ha un reggiseno ad usum, diciamo così, telegiornali. Sabina Guzzanti, buonasera. Buonasera, salve. Com'è Stella come comico? Potrebbe prendere il suo posto? Abbiamo pensato di introdurla così perché non erano male queste, no? Sono cose un po' risapute. Sempre. Sì, vabbè, io ammetto che... Poi ce ne sono anche altre, sul pisello di Marte. Vabbè, Sabina Guzzanti in tour in questi giorni con... insomma, quest'estate con uno spettacolo dal titolo Sì, lo pronunci meglio lei e ci spieghi anche perché questo titolo? Il titolo viene da un dai referendum, naturalmente, da un cartello buffo che ha messo qualcuno nel gay pride, che ha girato abbastanza su internet, che appunto si intitolava L'orgasmo dei quorum, era sì, che appunto sono i quattro sì del referendum e la gioia orgasmatica che ne deriva, e quindi lo spettacolo è il tema dello spettacolo è questo, che abbiamo abbondanti spunti dall'attualità, sì. Abbondanti spunti dalla fresca attualità politica, sempre. Come sempre. Sempre satira politica, e appunto, e c'è questa idea che appunto il berlusconismo sta finalmente finendo, ma il paese che lascia è un paese distrutto come dopo una guerra, e quindi tutto lo spettacolo è sull'analogia tra l'Italia di oggi e l'Italia del dopoguerra. E ogni capitolo c'è insomma personaggi così divertenti, naturalmente. Per esempio, come nel dopoguerra gli italiani sono di nuovo, siamo di fronte a una nazione da rialfabetizzare da capo. Nel dopoguerra si risolveva col maestro Manzi, le lezioni non è mai troppo tardi, come no, che spiegavano l'alfabeto. Oggi però si potrebbe anche utilizzare la televisione in modo intelligente come si faceva allora, però la cosa più probabile è che lo diano a Lucia Annunziata, per dire la lezione non è mai troppo tardi, che quindi ci spiegherà A come Annunziata e B come pluralismo e poi A Annunziata, eccetera. Quindi con ogni capitoletto ci sono... Ci sono poi i soliti personaggi, tra cui per esempio Lucia Annunziata, uno dei più, io personalmente dico, esilaranti, anche se il mio preferito è l'avvocato Azzeccagarbulli, che io personalmente ho visto... quello non c'è volta. Quello fantastico, ma chi era? Ghedini o non no, direttamente? No, non è nessuno in particolare, ci sono anche dei personaggi che sono inventati, insomma. Qui ci sono dei personaggi nuovi, inventati... Quell'avvocato che, diciamo, raccontava cose, le cose più nefande del mondo come se fossero le più normali. Ma è stata l'ultima apparizione in TV o ricordo male io? Di Sabina Guzzanti. Sono andata qualche volta, sì, da Santoro ospite. Era Santoro però anche. Questo, insomma, anche... Sì, era da Santoro, sì. Sì. L'assenza dalla TV è ricercata, non lo so, oppure è in qualche modo mancanza di richieste? Ma lei fa questa domanda sul serio, oppure... No, perché ci sono molti artisti che preferiscono allontanarsi. Sappiamo che lei ha avuto il programma censurato, insomma, che non è andato avanti anni fa, e che, insomma, problemi con... perché andava in onda una puntata sola, e poi ha dei dubbi sul fatto che sia stato censurato? Mi sembra abbastanza palese, è andato avanti una sola, è andato in onda una puntata sola e poi è stato chiuso per delle ragioni pretestuose che poi sono state confermate come pretestuose, senso che mi avevano fatto una causa e il giudice ha detto che avevo ragione io, quindi non credo che si possa ancora presentare la questione come con dei dubbi, no? Sì, perché sennò altrimenti se non si arriva mai a un punto fermo, e se hanno, come dice appunto l'Annunziata, visto che le piace, il giornalismo responsabile non deve dare tutto il torto a quelli che hanno torto, il torto va giustamente distribuito un po' fra quelli che ce l'hanno e un po' fra quelli che non ce l'hanno. No, ma ecco, a proposito allora di televisione, un commento allora serio su questo. La RAI, se ne è discusso molto, ha perso Santoro, che faceva tutti gli ascolti che faceva, piacere o non piacere, ma che li faceva. Adesso se n'è andato il direttore di Rai 3, Ruffini. Fazio e Saviano traslocano con Vieni via con me sulla 7. Che succede alla RAI? Sempre peggio dal suo punto di vista, queste cose le ha denunciate più volte, però? Però cosa? No, non lo so. No, beh, non so se c'è, però. Non si può commentare questa situazione. Appunto l'ho denunciato più volte perché è la verità. Io sono 8 anni che non posso tornare in Rai, ho testato nel 2003. C'è un, lei ci tornerebbe volentieri. Un regime di censura e se c'è un abuso di potere, perché nessuno ha il diritto di utilizzare la RAI, di far parlare chi vuole o chi non vuole, insomma è un'interpretazione assai larga di una regola che tra l'altro non esiste, quella della lottizzazione, che è pure una regola insomma non scritta. È un abuso di potere. Beh sì, è una regola non scritta. Se vogliamo che le cose cambino, sì, bisogna chiamare le cose col loro nome, io direi, no? Non le sembra? Ma nel sì, senso che è totalmente palese che, beh, no, che la RAI di... ci sia una lottizzazione con no, diciamo, regole non scritte. Anche censura, questa, che sì, ci sia mancanza di democrazia, che le persone che sono scomode però non allora possono mi, parlare. Mi interessa una sua opinione su questo e torniamo all'annunziata. Lei tempo fa aveva denunciato la cricca dei soliti anche a Rai 3, una rete che è stata in mano fino ad ora a Ruffini, che ha dato spazio anche a trasmissioni considerate nemiche del governo. Lei però non ha più trovato spazio neanche a Rai 3 e si allinea al giudizio dell'annunziata. È stato Ruffini a chiudere Riot insieme all'annunziata, quindi insomma l'hanno chiuso loro insieme al centrodestra perché ritenevano che non fosse legittimo che una persona dicesse quello che pensa senza concordarlo con i partiti, perché le cose che poi io dicevo in Riot erano come Berlusconi ha preso le frequenze televisive, e tutte cose vere, strarisapute, e c'erano anche delle critiche alla sinistra, perciò anche Ruffini e l'annunziata si sono sentiti in dovere di proteggere le persone che li avevano messi là. Questa è una cosa molto grave. Se la televisione fosse stata libera o più libera, gli italiani avrebbero potuto discutere, ora non ci troveremmo ad aver perso praticamente la sovranità nazionale e ad essere un paese distrutto. Ma mi scusi ancora una cosa su questo, poi magari parliamo anche più dello spettacolo. Trasmissione come quella di Fazio, Che tempo che fa, il programma con Saviano, anche in quel caso vengono dette solo le cose che vogliono i partiti? Diciamo che poi adesso che mano a mano che la situazione è diventata sempre più grave e preoccupante, mano a mano che Berlusconi poi si è indebolito per conto suo, l'opposizione si è fatta un po' più di coraggio, mi sembra, e quindi diciamo ha deciso di essere più combattiva, ma in un periodo piuttosto recente, e quindi insomma sono state permesse anche delle cose diverse, ma insomma però non lei, però non Sabina Guzzanti. Beh, evidentemente io non lo posso... è più forte, la sua satira è più forte di quella, sicuramente, forse lo dico anch'io dal mio punto di vista, per quello che conta, di quella di altri programmi, che non so, per esempio la Dandini o anche di certe cose che può arrivare a dire lo stesso Saviano. Senta, riesce ancora a far ridere con Berlusconi? Penso di sì, perché nel suo programma sicuramente si ride. Lei diceva alla fine del berlusconismo, lei l'ha imitato per anni Berlusconi, faceva più ridere anni fa. Lui? Beh sì, adesso è talmente bollito che sembra insomma difficile da prendere in giro, nel senso che è arrivato, non c'è più... Non c'è più tanto gusto, effettivamente. E invece, per esempio, con il centrosinistra, la sua imitazione di D'Alema, anche questa è rimasta storica. Qual è oggi il peggior difetto per lei che fa satira e quindi si attacca ai difetti della sinistra? Anche nello spettacolo c'è anche un pezzettino di Bersani, breve, ma che a me sembra molto... insomma, che mi sembra che anche il pubblico lo trovi molto indovinato su quanto poco le risposte che il centrosinistra ha dato in questo momento, insomma in tutti questi anni alle prese di posizione del governo siano apparse inadeguate, insomma chi si sentiva di essere difeso. C'è un pezzetto in cui dico che non mi sarei stupita una sera di accendere la televisione e sentire uno speaker di un telegiornale annunciare che il governo aveva deciso di aprire delle camere a gas e Bersani commentare che poi il problema, insomma, è che loro i soldi per il gas non li hanno, è questo che non vi dicono. Poi volete fare le camere a gas, va bene, ma facciamolo insieme, non è che potete fare le camere a gas da soli. Ecco. C'è un Bersani che vede il dito, diciamo, non, cioè vede una parte minore dei problemi. Ecco, sì, se a vederla vedere... Sì. Come leader del centro-sinistra lei lo vede totalmente inadeguato, Bersani? Beh, diciamo che fino adesso le loro risposte sono state totalmente inadeguate perché avevano fatto un'analisi o avevano un disegno che poi hanno comunque ancora, che io non condivido, insomma, ma... Io penso che si possa dire a questo punto che era sbagliato, poi hanno fatto un po' di marcia indietro, voglio dire, lo spettacolo appunto non a caso parte dal referendum e dalla vittoria delle amministrative, perché comunque, anche se non è che credo che questo sarà il nostro futuro, ma è sempre bello scoprire che l'opinione pubblica ogni tanto è sana, insomma, io mi fa tanto bene quando... Senta... qualche altro dettaglio poi la lasciamo sullo spettacolo, magari rispetto ai personaggi più noti, Berlusconi, D'Alema, abbiamo detto, ci ha fatto un pezzettino di Bersani, ci sono qualche new entry? Sì, c'è un personaggio che a me diverte molto fare, che è di un'americana, che è in inglese con una traduzione simultanea, che insomma a me sembra molto divertente, spero che cresca in futuro, perché è una cosa che faccio da un po', sulla vita senza welfare, è una donna che racconta che ha questi due bambini, però insomma ovviamente così detta così non so se si sciupa e basta, comunque che ha due figli che hanno fatto l'esame per entrare, il test per entrare nelle migliori università, che il più grande ce l'ha fatta, il più piccolo no, e che lei ovviamente è fiera del più grande, gli dispiace per il piccolo, ma sarà destinato ad essere un perdente, non sa quanto si rende ancora conto, il secondo, il più grande sì perché ha 5 anni, ma il secondo ha solo un anno, ancora un po' papà, mamma, mamma. Insomma, uno sguardo cinico dal mondo anglosassone sul welfare. Esatto, e poi c'è una parodia di una canzone di Maria Nazionale che pure mi diverto molto a fare, una canzone che si chiama Ragione e Sentimento, non so se non è il genere di canzone, immagino che no, però è quella la radio, però è un capolavoro assoluto, sì. Ed è appunto una donna, la ragione e il sentimento, la stessa persona, una donna innamorata di un uomo veramente pessimo, che la tradisce, che la tratta malissimo, che è uno schifo di essere umano, la ragione le dice questo e lei invece risponde: io questo uomo lo amo, eccetera, ed è dedicata agli elettori di Berlusconi con le parole cambiate, per appunto come una canzone si dice stai ghiagnendo la tua vota, ma perché l'hai rivotato, tu sei scema, sei cretina, lui da capo t'ha lavato, quante volte lui ti dice che fatica fino a notte, non lo sa perché a quell'ora è tornato in mignotte, eccetera eccetera, cioè, fa molto ridere ed è una gioia aprire così uno spiraglio sulla canzone napoletana. Sabina stasera è a Cervignano del Friuli, è così? È così. Onde Mediterranee, Parco Europa Unita, e poi ripescia domani, no, dopodomani. A Grosseto, poi Festa Ambiente, vabbè, insomma, il 13 agosto, per esempio, una data importante a Firenze, Fortezza d'Abbasso. Io la ringrazio, grazie mille. Grazie a lei. Buona serata, Sabina Guzzanti ci ha regalato qualche piccolo, così, gustoso assaggio dei suoi personaggi. 19:49, riprendiamo con gli ascoltatori, avendo sempre un occhio a cose un po' più serie. Sebastiano Barisoni ci ha raggiunto nuovamente, abbiamo Wall Street che come va? Ma leggermente migliorata, meno 2,60%, sì, cose più serie anche, notizie e anche più tragiche. Ricordiamo che si fosse messo in collegamento ora Milano, il crollo peggiore dal fallimento di Lehman Brothers, adesso la notizia ufficiale, meno 6,65%, quasi il 7% di crollo per Piazza Affari oggi, con titoli bancari, e di nuovo lo ricordo, Intesa San Paolo perde quasi il 14%, Ubibanca meno 10,1%, Prismian, che non è bancario, meno 9,80%, poi il Monte dei Paschi meno 9,80%, Fondiaria meno 9,5%, Unicredito meno 9,4%, Banco Popolare meno 9,4% e Popolare di Milano meno 8,91%. Cali e vendite e crolli, tonfi e vendite innescati dalla Francia oggi, e ripetiamoci sempre, un nuovo motivo per andare a vendere ormai da settimane, oggi si chiama Francia, nonostante il vertice questa mattina di Nicolas Sarkozy, nonostante le smentite arrivate sia dall'Eliseo che dalle agenzie di rating, che non vi sarebbe stato nessun abbassamento di voto al debito francese, le voci sono girate su alcune banche francesi che sarebbero in difficoltà, in crisi di liquidità, anche per le molte obbligazioni greche, ma non solo, comprate. E così Société Générale, uno dei primi gruppi bancari d'Oltralpe, ha perso il 20% oggi in borsa. Non da meno Crédit Agricole meno 16%, BNP Paribas meno 13%. Insomma, alla fine Parigi ha perso quasi il 6%, Francoforte il 5%, i titoli che abbiamo ascoltato anche la zanzara dei TG, che saranno poi i titoli dei giornali di domani, crollano le borse europee. Non è l'euro, voglio precisarlo, sotto attacco, l'euro è rimasto a quota 1,42, sono i paesi e le banche dell'area euro a essere sotto attacco. Benissimo, cari ascoltatori. Benissimo. Allora, benissimo. Benissimo, ovviamente, per un intercalare, ma è ovvio che non c'è molto, molto da commentare di bene. Ascoltatori, riprendiamo con i vostri interventi. Approfittate anche della presenza di Sebastiano Barisoni per fare interventi di carattere economico su questa crisi, con un occhio magari anche alle agenzie. Non so se l'incontro è terminato, credo. Sì, sì, terminato. Gli interventi di carattere economico sono quelli brevi, perché permettono anche. Sì, è terminato l'incontro, la Marcegaglia, presidente Confindustria, ha definito come positivo l'intenzione del governo di arrivare a un Consiglio dei Ministri a metà agosto con un disegno di legge, il 18 di agosto, con un disegno di legge che andrà a riformulare la nuova finanziaria. Delusa invece la numero uno della CGIL, Susanna Camusso, il governo ha fornito risposte inadeguate sotto le attese. Non c'è molto d'altro se non appunto le parole di Letta che tu citavi, che ha detto in 5 giorni la situazione è radicalmente cambiata. Bisogna essere pronti a tutto. Non si sa ancora molto su quali saranno le misure per raggiungere questo pareggio, lo vedremo probabilmente nei prossimi giorni. Paolo dalla provincia di Brescia, buonasera. Buonasera. Prego. Volevo fare un intervento, ma mi ha anticipato Barigioni, perché volevo chiedere se era l'euro sotto attacco. Ha detto che non è l'euro, ma sono i paesi. Ma la cosa che più mi preoccupa, che volevo chiedere, è quali saranno le conseguenze di questa crisi sull'economia reale, perché per adesso siamo fermi alle svalutazioni, a bruciare miliardi. Mi auguro, ecco, quando si dice bruciare miliardi, facciano un bel falò dove c'è un po' di freddo, almeno si scaldano. Però a settembre, quando si rientra dal lavoro, che sono passate le vacanze, i lavoratori dipendenti cosa trovano? Uno stipendio con un potere di acquisto più basso, tasso di disoccupazione che aumenta, perché l'onda lunga prima o poi arriva e qualche morto, tra virgolette, sull'asfalto lo lascia. I primi morti sono quelli della fanteria. Sì. Grazie Paolo, grazie. Facciamo un altro intervento e poi magari mettiamo insieme 2 o 3 domande e poi rispondiamo. Piero dalla provincia di Trapani, buonasera. Pronto, buonasera. A lei e ascoltatori. Io, guardi, sono indignatissimo, perché negli ultimi giorni si è parlato di evasione fiscale, ma in maniera assolutamente sovietica. Perché? Te spiego. Lo Stato furbamente mette in un unico calderone chi non può pagare le tasse, per esempio come me che in questo mese ho avuto problemi, che poi lo Stato si potrà sicuramente fare con me e io pagherò, e chi invece evade le tasse. Però anche parliamo di chi evade le tasse, il mitico idraulico. Se viene l'idraulico a casa mia e mi dice ti faccio questo lavoro, finisce 50 euro, con l'IVA 70 euro, ma mi spiega perché io mi dovrei fare la fattura, cioè mi dovrei autotassare. E questa campagna di spot che stanno facendo è una cosa veramente indecente. Perché è una cosa indecente? Non può contribuire a creare un'immagine più negativa degli evasori fiscali, però sempre diciamo, lasciando da parte il caso che diceva lei, cioè delle persone che si trovano a non poter pagare per necessità, e in quel caso si possono fare anche frazionamenti, rateizzazioni. Cioè, lei non pensa che su questo invece sarebbe anche l'ora di dare dei segnali dal punto di vista anche culturale? Ma culturale di che? Di che parla? Mi scusi. Culturale che significa? Che uno che dell'idraulico, l'ha detto lei. L'idraulico, che arriva a un certo punto, non potendo pagare le tasse, dice: io chiudo la partita IVA, mi metto a lavorare da solo. Lei tenga in mente che il Draghi non potrà mai fare più lavori per un'impresa, dovrà lavorare solo avendo conoscenze. Ho capito. No, mi faccio rivolgere. Sì, sì. No, mi permette, solo una cosa. I soldi di questi piccoli evasori sono soldi che rimangono in tasca. Per esempio, lei metta. I medici professori che fanno le lezioni private. Basta, grazie Piero, l'abbiamo già detto questo dei professori che fanno le lezioni private, però la distinzione l'ha fatta lei tra chi è nella condizione di non poter pagare certi tributi e invece chi evade per evadere. E allora su questo secondo fronte, a meno che tutti quelli che evadono e che poi magari non dico lo yacht, ma insomma anche l'auto di lusso e ci sono, su questi bisogna darlo un segnale, se no lei finisce per giustificare tutta l'evasione fiscale, che non è evidentemente giustificabile, almeno io la vedo così, Piero. Luca da Trento, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera, niente, ci tenevo a porre più che altro un quesito che può diventare un oggetto di riflessione, in quanto si parla tanto in continuazione in questi giorni, ma da tempo, di speculazione, gli attacchi della speculazione, bisogna contrastare l'avanzata della speculazione, eccetera. Però mi chiedo, o meglio chiedo a voi, se è possibile avere o dare quantomeno una risposta. La speculazione sembra in questo periodo attaccare i governi, attaccare le banche centrali, cioè sembra proprio uno scontro fra titani, la grande speculazione da un lato e banche centrali e governi dall'altro che cercano di difendersi, di attaccarsi l'uno contro l'altro. Ma è possibile che succeda questo? È possibile che la speculazione, che è spesso così indefinita, difficile da capire chi è esattamente lo speculatore, riesca ad essere in taluni casi, e oggi è un esempio, più forte di governi, più forte delle banche centrali, le stesse che dovrebbero poi garantire e mantenere certi equilibri, governi e banche centrali che dovrebbero cercare di fare le regole e continuano a dirlo per contrastare la speculazione, e poi ci troviamo direttamente quotidianamente attaccati dalla speculazione. Grazie Luca, grazie. Dobbiamo fermarci, se vuole proseguire lo risentiamo dopo. Abbiamo la pausa, rientriamo tra pochissimo, 824 0024, sentiremo anche i titoli dei telegiornali aggiornati con le ultimissime notizie e poi Sebastiano Barisoni, che qua con me, proverà a rispondere ad alcune delle vostre suggestioni in questa giornata difficile, diciamo così. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Quando sono le 20 in punto, riprendiamo con i titoli del TG1. Borsa europea in caduta libera, trascinate da Wall Street, perdono fino al 6%, Piazza Affari la peggiore, crollano i bancari. Berlusconi alle parti sociali, prossima settimana Consiglio dei Ministri con decreto anticrisi, marcegaglia, manovra sia equa e rigorosa. Da Londra la rivolta si sposta a nord, attenzione a Birmingham, 3 ragazzi investiti ed uccisi, 1200 arresti, Cameron, la linea dura paga. Monza, lite tra ragazzi e giardinetti, 18enne ucciso con una bottigliata alla gola, a colpirlo un giovanissimo sudamericano. Catturato mentre bruciava i pizzini, il boss di Rosarno, Francesco Pesce, era in un bunker super attrezzato dentro un'azienda agricola. Grande attesa a Bari, dove tra poco l'Italia di Prandelli affronterà in amichevole la Spagna. L'affetto dei tifosi per gli azzurri e per Cassano, campione di casa, diretta su Rai 1 al termine del nostro TG. Abbiamo sentito un Gian Antonio Stella particolarmente in forma a Cortina Incontra, che raccontava particolari a me ignoti. Sabina Guzzanti invece dice che le conosceva già queste cose, sul dipinto del Tiepolo che campeggia dietro lo sfondo delle consuete conferenze stampa a Palazzo Chigi, insomma le scelte artistiche di Berlusconi. Secondo Stella, qua si parla della statua di Marte. La cosa più bizzarra, secondo me, ancora, è la scelta di questo grande gruppo marmoreo. Sono due statue grandi, sono alte circa 2 metri e 30 centimetri, e per fare questo gruppo Marte e Venere posarono Marco Aurelio e sua moglie Faustina. Bene, Berlusconi se n'è innamorato e ha chiesto di portarlo a Palazzo Chigi. Non gli andava bene così, ha fatto fare dei ritocchi, gli ha fatto fare, diciamo così, un lifting marmoreo, ha fatto mettere una mano nuova a Venere, ha fatto ripristinare un braccio a Marte, ha fatto rifare un nasetto, un delizioso nasetto all'insù, sempre a Venere, ma soprattutto ha ripristinato il pisello a Marte perché era stato spisellato nel corso dei secoli. Così, giusto per interrompere un po', per spezzare, non voglio dire la monotonia, ma insomma la cupezza della giornata di borsa, ancora stella sul i dettagli di questo benedetto pisello di Marte. Era stato fatto addirittura uno studio filologico per sapere quanto dovesse essere grande questo speciale allegato di Marte che si era perduto nel corso dei secoli. Tra l'altro non l'hanno neanche imbullonata, perché pensando che un domani un magistrato gli chieda, possa chiedere conto di questo intervento, allora hanno preferito fare una cosa che si attacca col magnete. Un giorno in cui passava davanti a queste statue, distraendosi per un attimo dai suoi pensieri dedicati al nostro benessere collettivo, il presidente ha avuto l'occhio che gli è caduto lì e ha detto: Crivio, ma è troppo piccolo, e l'ha fatto rifare. Per cui adesso abbiamo due copie del pisello di Marte, una, diciamo così, filologicamente corretta e una cavallerescamente corretta, e vabbè, e lì stiamo. Ora, io non lo so se Stella abbia delle informazioni di prima mano su questo, però insomma, quantomeno il racconto è divertente. Titoli della 7, poi rientriamo con gli ascoltatori. Lo tsunami dei mercati mondiali, in Europa bruciati 174 miliardi di euro, la maglia nera ancora Milano che chiude sfiorando un rosso del 7%, mai così male negli ultimi 3 anni, panico anche a Wall Street. E a condizionare le borse anche l'allarme del possibile declassamento della Francia da parte delle agenzie di rating. Confermata per la AAA, il presidente Sarkozy rientra dalle vacanze, convoca un vertice all'Eliseo e annuncia nuove misure per fine mese, nella giornata nera dei mercati, a picco soprattutto le banche. Dura 1 ora e mezzo l'incontro tra governo e parti sociali, anticipato dalla dichiarazione di Gianni Letta che gela il vertice. La situazione precipita, siamo pronti a valutare ogni ipotesi. Berlusconi promette: faremo tutto, presto e bene. In corso il vertice del PDL, ma anche l'incontro tra Berlusconi e Bossi. Ma insomma, cosa vuole fare il governo? Nuove misure saranno annunciate in Consiglio dei Ministri. Tremonti spiega: la manovra dovrà essere cambiata, l'intera maggioranza Lega fa pressing, niente patrimoniale, nessun taglio alle pensioni. Ed è per questo che ci sono perplessità e anche atteggiamenti negativi degli esponenti delle parti sociali e dell'opposizione dopo l'incontro. Non è stato all'altezza della situazione, dice la leader della CGIL Camusso, mentre Emma Marcegaglia chiede tagli e rigore, tracciabilità dei contanti, ma dice: ma è possibile che non ci abbiano detto quali sono le misure? La linea dura ha pagato, ora continueremo a fare tutto ciò che è necessario per il rispetto della legge. Così David Cameron, dopo la prima notte senza gravi violenze a Londra. Però la tensione rimane altissima, scontri nel nord dell'Inghilterra, Liverpool, Manchester, soprattutto Birmingham. 16.000 i poliziotti schierati, 1.300 gli arresti. 26 minuti, riprendiamo con i vostri interventi. Francesca ci chiama da Verona, buonasera, benvenuta. Buonasera, prego. Buonasera. Guardi, non sentivo più Crociani proprio per le trivialità che buttava sul nostro Presidente della Repubblica, su Berlusconi, e mi è toccato questa trasmissione qua dove lei sta prendendo il costume un po'... di Crociani e quell'altro. No, io telefonavo, è un peccato proprio che scada così in basso, tanto più che lo dice per prendervi in giro. Io volevo dire soltanto che... Io non ci ho capito nulla su quello che ha detto fin qua, però non importa. Qual era l'oggetto del suo intervento? No, perché sì. L'ho sentito adesso. Sì, sì, sì, ma non importa. Ho chiamato che non avevate ancora parlato, quindi alla signorina non ho detto questo. Sì. Volevo soltanto dire una cosa, che intanto governare facendo i debiti è più facile che governare con i debiti già fatti. tra parentesi Tremonti. Poi c'è un altro che dice si sono scambiati i privilegi per diritti, e questo io lo riferisco alle famose pensioni dannata. Io parlo della scuola, ci sono state tante di quelle pensioni dannata di qua, di là, ci sono state nello Stato addirittura pensionate della SIP che sono andate in pensione con 7 anni di anzianità, nelle quali si sono fatti 2 figli. Sì, grazie Francesca, è giusto anche ricordare queste cose, però sono cose del passato, adesso non per sminuire quello che lei sta dicendo, perché tutto questo poi, Sebastiano, ha contribuito a creare anche il grande fiume del debito pubblico, però sono cose che non so se ha senso ricordare oggi, perché oggi queste cose non succedono più, e invece dobbiamo guardare quello che è all'ordine del giorno, cioè quello che il tema dell'incontro di oggi è cosa può fare l'Italia a partire da oggi per risolvere questa questione, quantomeno arginarla, del debito, per andare verso il pareggio di bilancio che i mercati e non solo ci chiedono, e quindi da oggi però, perché altrimenti poi rievochiamo sempre cose del passato. Gabriele da Milano, prossimo intervento, prego. Ci sente? Sì, è in linea. Allora, il mio intervento era riguardo allo spot di Tremonti. È duplice, nel senso che io sono perfettamente d'accordo con definire parassiti sociali gli evasori fiscali, perché semplicemente utilizzano servizi che altri pagano e quindi sono parassiti a tutti gli effetti. Il problema semmai è un altro, come ha detto prima l'ascoltatore Pasquale, è i comportamenti pregressi del governo che tutto hanno fatto fuorché confermare la tesi del parassita sociale. E in più, cioè, aggiungerei anche un piccolissimo fatto, che è quello che chissà perché tutti i più grandi evasori, rivolgendosi allo studio del nostro Ministro delle Finanze, riescono a raggiungere spesso e volentieri degli sconti sui contenziosi fiscali nell'ordine del 60-70%. Quali sono Gabriele, le misure prese dal governo, le cose che lei ha detto ma non ha citato, che abbiano in qualche modo favorito l'evasione fiscale? Beh, è presto detto, l'ha detto anche prima Pasquale, mi sembra si chiamasse, lo scudo fiscale in primis, tutti i vari condoni che ci sono stati, dal condono edilizio al condono fiscale, eccetera, eccetera. Però io mi permetterei di fare anche una proposta a questo punto, cioè quella di semplicemente ridefinire il reato di evasione fiscale come un reato contro la collettività e aumentare quindi di conseguenza le pene, perché poi questo è collegato anche al sistema giustizia che non funziona, ma il problema grosso in Italia è che comunque anche se sei beccato a non pagare le tasse, hai sì forse una multa che rivolgendoti allo studio Tremonti riesci a diminuire. E dagli, lei ce l'ha con Tremonti, questo studio Tremonti? No, non ce l'ho con Tremonti. Perché fa il commerciale, faceva il commercialista. Sì. Quindi lo conosco abbastanza bene, conosco chi lavora per lui e conosco diverse persone nell'ambiente, ma non è questo il problema. Il mio problema è che in Italia l'evasione fiscale massimo viene, se non vado errato, io sono laureato in economia, non in legge, ma mi sembra venga punita con 6 o 7 anni di reclusione. Vabbè, insomma, lei propone anche da questo punto di vista un cambio di passo, reato contro la collettività, e questa è un'opinione, non è male, almeno personalmente. Rocco da Chieti, buonasera. Rocco, ci sente, prego. Sì, sì, buonasera. Sì. Senta, io volevo parlare appunto di questa situazione, diciamo, drammatica che sta succedendo nell'economia globale. Soprattutto il mio intervento riguardava una crisi globale del capitalismo, non tanto una crisi dell'euro, perché è vero che l'euro è stato costruito, cioè è stata costruita prima un'unione economica e quindi un'unione monetaria, e l'unione politica non ancora è stata realizzata, e quindi siamo andati al contrario di una politica economica in cui prima nasce lo Stato e poi la moneta. A parte questo, però, secondo me ho visto che vengono colpiti anche Stati in cui il potere politico è molto forte, quindi gli Stati Uniti che hanno un esecutivo forte, la Francia, l'Inghilterra, E tra questi ci sono paesi con un esecutivo, un potere politico molto più blando, tipo l'Italia, la Grecia, il Portogallo. Quindi non è più, diciamo, un problema solo italiano. Secondo me è una crisi globale del capitalismo che non ha posto le regole fondamentali per una le regole basi per una funzionalità. D'altronde un vecchio economista come Adam Smith, stiamo parlando di 300 anni fa, già l'aveva capito che il mercato per funzionare ha bisogno di una cornice legale, e senza questa cornice legale il mercato non funziona, quindi va a briglie sciolte. Ed ecco che secondo me uno di questi grandi problemi è che la politica deve ritornare a governare il mercato, ma non intromettendosi nel mercato, bensì facendo delle regole quadro in cui il mercato si può muovere e stoppando il mercato, fermando il mercato quando impazzisce. Ripeto, lo speculatore per me non è una persona, uno iettatore, come dire. Secondo me lo speculatore è un ottimo investitore. Cioè lei dice uno che segue il flusso e sono i flussi che vanno regolati, e questa mi sembra un'opinione di buon senso. Condivisibile, se non altro non è che si possa far molto contro lo speculatore, cioè nel senso contro la singola persona, bisogna fare sicuramente in termini di regole. Però qua a questo punto io cedo assolutamente lo scettro e la parola a Sebastiano Barisoni, se riesce a recuperare un po' di lucidità in una giornata del genere e gli spunti, ciò che resta del giorno. Sì. Allora, per rispondere alle varie domande che sono arrivate nell'ultima mezz'ora. Prima domanda, se non ricordo male, dell'ascoltatore: che cosa capiterà quando torneremo al lavoro a settembre? Beh, è chiaro che una crisi del genere si scarica sull'economia reale. Come si scarica? Si scarica con un aumento dei tassi praticati dalle banche a imprese e risparmiatori. È inutile girarci attorno, le banche sono in sofferenza e in qualche modo questa cosa la scaricheranno. Si scarica soprattutto con una manovra finanziaria aggiuntiva. Il presidente del Consiglio Berlusconi lo ha detto chiaramente, anche Tremonti, in autunno si sta pensando a una manovra correttiva, ci siamo già bruciati la manovra con l'aumento degli spread, e chiaramente lo Stato si deve mettere mano alle risorse del Paese. Questo significa, e veniamo ad altre domande che sono arrivate, muoversi su due direzioni. Allora, le due direzioni, la patrimoniale e le pensioni. Quello che è il tentativo in corso, e ne è un esempio il vertice oggi tra governo e parti sociali, è di arrivare, come chiedono anche le parti sociali, a un accordo capitale barra lavoro. Ossia, al lavoro viene chiesto di restare, e quindi ai lavoratori, di restare al lavoro un po' di più, e questo significa sacrificare chi stava per andare in pensione adesso, innalzare eventualmente l'età pensionabile delle donne e quant'altro. E questo è lo sforzo richiesto ai lavoratori. Al capitale viene chiesto lo sforzo di una patrimoniale sulle rendite più ricche. Questo è il tentativo tra sindacati, Confindustria e banche per arrivare a un accordo che deve essere chiaramente anche, deve vedere favorevoli anche i sindacati. E cioè si tassano le rendite finanziarie magari al 20%, i capitali più grossi, le patrimoniali, l'ICI sulla seconda casa e quant'altro. Allo stesso tempo si chiede ai lavoratori uno sforzo sull'età pensionabile, e questa potrebbe essere la soluzione. Se non fosse, e continuo a rispondere alle domande che sono arrivate, che la Lega dice di no all'aumento delle pensioni, Berlusconi dice di no alla patrimoniale, allora io modestamente non capisco più dove arriveranno i 35-40 miliardi che servono per l'anno prossimo. Altro gruppo di domande, l'evasione fiscale. Al di là dello spot dell'Agenzia delle Entrate, parliamoci chiaro, è chiaro che la recessione ha colpito. Ci sono artigiani che non ce la fanno più con il studio di settore, ci sono imprenditori che sono strangolati anche nel rapporto con le banche, che tendono a essere ogni tanto a fare i forti con i deboli e i deboli con i forti. Però questo è un paese che ha 200 miliardi di euro almeno di imponibile che viene evaso, cioè 100 miliardi di euro evasi ogni anno. Siamo a record, in proporzione ci batte solo la Grecia, in numero assoluto siamo un record europeo. Quindi dire che l'evasione non è un problema in questo paese mi sembra un po' difficile. Casomai diciamo che il problema vero è quanto riscuoti dall'evasione. Faccio notare, e qui vengo alla quarta, se non ricordo male, domanda, che molti dei parametri della linea politica del governo sono cambiati. Cioè, questo governo ha detto, quando è arrivato, che la crisi non era in Italia, che avrebbe colpito meno l'Italia, che l'Italia era già fuori dalla crisi, che avevamo risparmio delle famiglie, che la gente continuava a comprare telefonini e andare in vacanza, che la crisi non c'era. Adesso oggi Gianni Letta finalmente dice: beh, è successo di tutto, siamo pronti a fare tutto, e fa capire che la crisi, siamo nel buio della crisi. Era anche il governo che diceva: attenzione, non si possono tassare, non mettere le mani. È tutto cambiato, per cui limitarsi a dire è sbagliato prendersi con gli evasori. No, bisogna colpire gli evasori con gli strumenti molto semplici. Torniamo a un livello di uso dei contanti molto più basso, limitiamo il numero di assegni, cioè le misure di Visco, so che è impopolare dirlo, ma sono le misure che lentamente su cui Tremonti, dopo averle eliminate, è tornato. Ultimo aspetto, la speculazione economica, e poi veniamo anche allo scontro mercati politica. La speculazione c'è, però attenzione, la speculazione può essere limitata, si possono ridurre le vendite allo scoperto, si possono ridurre alcuni strumenti, ma lo speculatore è come un avvoltoio o una iena. Attenzione che l'avvoltoio quando si muove c'è già il cadavere e si muove a ragion veduta, per cui dare la colpa alle speculazioni è come dare la colpa della febbre al termometro, cioè si muove laddove ci sono dei margini. E vengo all'ultima domanda, spero di averle sintetizzate tutte. Il rapporto, l'ultimo ascoltatore diceva, qui c'è una politica in difficoltà rispetto ai mercati. È verissimo, ha fatto un bellissimo articolo Antonio Polito tempo fa, dicendo una volta bastava un vertice del G7 per dire non ci attaccate perché vi risponderemo e i mercati cambiavano rotta. Così non è. Perché? Perché in questi due anni né Barack Obama negli Stati Uniti, quando poteva nel 2009, ha voluto mettere in mano una riforma vera di Wall Street, né in Europa Angela Merkel, Sarkozy e tutti gli altri premier si sono messi a fare una riforma vera del mercato. I mercati adesso sono più forti, hanno capito che la politica è debole e gliela fanno pagare. Bisognava intervenire e a colpe enormi Barack Obama, a mio avviso, che si è circondato di tutti i figli di Wall Street, tutti i banchieri, ex banchieri che torneranno a fare i banchieri, bisognava colpire allora, e adesso è chiaro che il mercato si muove e non ti ascolta. Sono ammirato da come riesci a veleggiare, nel mare complicato, oltre che agitato, dei mercati, e queste sono le risposte di Sebastiano Barisoni agli ascoltatori. E valgono in quanto tali, cioè nulla. Sì, esatto. No, vabbè, insomma, valgono molto perché quantomeno, si orienta un po' il traffico, perché anche semplicemente capire le variabili di cui si sta parlando, credo che non sia poca cosa. 20:19, siamo in ritardo con i colleghi del traffico, rientriamo poi ancora una spicchio di programma per i vostri interventi. 20:21, faccio solo una postilla rispetto a quanto ha detto da Sebastiano Barisoni a proposito della possibile intesa che si profila tra il governo e le parti sociali, o quantomeno l'unico spiraglio che almeno secondo Barisoni si intravederebbe, quello di un prelievo sul lavoro attraverso meccanismi legati alle pensioni e sul capitale attraverso meccanismi legati alle rendite finanziarie. Le stesse parti sociali chiedono però alla politica, per dare il buon esempio, di fare un passo indietro anche lei, cioè di intervenire sui costi della stessa, cioè della politica, e quindi su un dimagrimento in qualche modo anche dello spreco statale o un miglioramento dell'efficienza della macchina pubblica, senza il quale... Questo almeno è quello che mi sembra anche dal tono degli interventi degli ascoltatori di queste sere, senza il quale niente diventa credibile. Da dove riprendiamo? Ci sono alcuni ascoltatori in linea. Fabio da Roma, sicuramente in attesa da un bel po'. Buonasera, prego. Pronto? Sì, Fabio, si svegli, è il suo momento. Buonasera. Prego. Io volevo fare una piccola proposta per quanto riguarda il modo in cui trovare un po' di soldi per estinguere un po' di debito pubblico. Sì. Che riguarda le somme scudate dallo scudo fiscale del 2009 e che potrebbero essere, secondo me, utilmente a vantaggio di tutti gli italiani, essere sottoposte a una patrimoniale secca, il cui ricavato potrebbe essere destinato in larga parte ad abbattere il debito pubblico e in altra parte a finanziare la restituzione delle imposte già pagate da contribuenti che sono in attesa di un rimborso da parte del fisco. Mi pare di ricordare che sì. Con lo scudo fiscale sono emersi patrimoni illegalmente detenuti all'estero per tra i 90 e i 110 miliardi, che sottoposti a una patrimoniale secca onesta intorno al 30%, che è comunque sempre molto conveniente, sì, consentirebbe di scavare fra i 30 e i 40 miliardi di euro. Grazie Fabio, grazie anche a lei. Andiamo al prossimo ascoltatore, Alessandro da Bari, buonasera. Buonasera, io sono un po' fuori luogo in mezzo a tutti questi discorsi, sì, tecnici di economia, però avevo chiamato perché volevo ringraziarvi per questa pagina di satira politica fantastica. Quando è stato intervistato, era un imitatore, mica era veramente il sottosegretario dell'economia. Sì, no, sì. È fantastico. Lui non sapeva neanche che cosa stesse facendo quando ci ha raccontato che stava prendendo dei provvedimenti. cioè ha eluso le domande, diciamo, minime, diciamo il minimo sindacale. E cosa gli dovevate chiedere? Se sono meglio le angurie o i melloni, non lo so, che tipo di pesce è meglio prendere ad agosto a settembre? Insomma, io da un sottosegretario nominato pochi mesi fa, tra l'altro diciamolo anche, nelle circostanze in cui è avvenuto quel rimpasto di governo, non è che mi aspettassi moltissimo in termini di sostanza economica, però qualcosina di più sì. Perdoni, ma se io non sono capace, io devo essere capace dal primo istante in cui vengo assunto. Io lavoro in ospedale, a me mi hanno chiesto di fare il medico con tutto quello che devo fare, dalla prima ora. Non avevo bisogno di... Se uno deve fare pratica, va in uno studio, impara e poi si mette a fare il sottosegretario. Ma scherziamo, a noi ci hanno portato anche a fare osservazioni di questo, cioè a rendere legittime osservazioni di questo tipo. Cioè questo diceva, io sono solo da due mesi. E che anche io... No, e io in questi due mesi cosa ho fatto? Allora potremmo bloccare tutto per due mesi, poi vabbè, ne riparliamo a settembre. No, a dire la verità, Cesario non ha neanche detto sono lì solo da due mesi, o forse sì, ma... Non ha proprio, cioè non aveva scuse, non aveva, sì, non ha, non, cioè, lui, non faccio nulla, non so nulla, ma guarda, senza dovermi giustificare. Pensavo che fosse un imitatore. Comunque, poi per chiudere, siccome l'ha ribadito due o tre volte che lui il 31 agosto sarà lì, sì. Ma io preferisco che questi siano al posto loro, lì facciano stare qualcun altro, loro si prendano ferie ad libitum, poi se ne parla, quando rientrano poi... Vediamo che cosa succede. Va bene, grazie Alessandro, grazie. Questa era la sua opinione, il suo intervento. Gianluca ci perdonerà. Abbiamo Gianni da Modena che è in attesa da molto. Prego. Buonasera, io volevo intervenire sempre sulla la questione dei politici. Sono d'accordo che l'evasione fiscale è da combattere, ci basta applicare comunque le regole. Però i primi ad essere demagogici e so praticamente i politici stessi che mancano di argomento, non sanno parlare e dovrebbero mettere mano innanzitutto a togliere tutte le ripetizioni. Cioè, una di queste qua potrebbe essere le province, non ha senso ripetere Stato, Regione, Province, Comuni, Quartieri. Nello stesso tempo l'unico governo forse al mondo che ha 900 persone solo di deputati, senatori, eccetera eccetera, sottosegretari, dei segretari, autisti degli autisti e roba del genere, a parte quello che consumano nelle varie strutture, e nello stesso tempo visto come il sottosegretario che è incompetente, le persone incompetenti non riescono a produrre a favore praticamente di un governo e di un popolo che ha bisogno di essere rispettato. È l'unica arma per combattere, mi permetta, questi ignoranti, è quella del voto, non è quella di uscire in piazza a distruggere negozi, macchine e quant'altro come sta succedendo in Inghilterra. Basta con il voto, si possono mandare a casa queste persone che non valgono nulla. Grazie Gianni, grazie. C'è un plebiscito per Sebastiano Barisoni, ministro dell'economia, ci sono vari ascoltatori, è inutile citarli uno per uno, che scrivono al 349-238-6666 apprezzando le sue risposte sulla crisi economica. Gianluca da Milano, credo che siamo in chiusura, per cui velocissimo. Buonasera, sarò velocissimo. Intanto vi ovviamente grazie a Barisoni per le sintesi e a lei per la conduzione. Volevo spezzare però una micro lancia a favore del governo, che se è vero che ha fatto ben poco e ben in ritardo, mi sembra in buona compagnia con i governi di tutti gli altri paesi, anche quelli che sono, cioè, anche gli Stati Uniti come la Francia e credo anche in fondo la Germania. Poi una domanda a cui non so rispondere perché non mi sono informato: il Belgio è ancora senza governo? Bellissima, grazie, ci fermiamo qua. Questa domanda non so rispondere. Ricordo la crisi del Belgio da tempo, ma no, in questo momento non ho una risposta. Domani 20 e 28, ci risentiamo domani. Radio 24, la passione si sente.